Innanzitutto, diciamo, bisogna considerare che il DEF normalmente viene presentato all'inizio del mese di aprile. In questo caso, diciamo, a quadro politico invariato sarebbe stato presentato il 10 di aprile. Visto che appunto c'è un governo che ancora non esiste, quindi le negoziazioni politiche sono in corso, il termine, diciamo, finale per l'invio di questo documento è in realtà alla fine del mese, è fissato alla fine del mese. Se però il governo non dovesse esistere neanche, diciamo, alla fine di aprile, che è un'eventualità possibile viste le complicazioni che si stanno verificando tra le forze politiche, allora il DEF presenterà soltanto il cosiddetto quadro tendenziale, cioè è come se il governo facesse le sue stime con il pilota automatico senza apporre appunto alcuna modifica rispetto alle previsioni che ci si aspetta, diciamo, da inizio anno. Quindi praticamente il DEF senza un nuovo governo sarà semplicemente una misura di come le cose andranno senza interventi politici discrezionali. Di solito, normalmente, quando c'è un cambio di governo, in realtà se il governo non è previsto formarsi a breve, il vecchio governo non rinvia il DEF, cioè fa in modo di inviare subito questo documento anche soltanto con il quadro tendenziale, proprio perché la Commissione europea in questo modo è tranquilla, diciamo. In questo caso l'ipotesi di Gentiloni era legata al fatto che se un governo si dovesse formare entro la fine del mese, questo rinvio poteva dare il tempo al nuovo governo di iniziare a mettere le mani sul documento con qualche tipo di quadro programmatico, cioè con qualche proposta che modificasse, diciamo, il quadro tendenziale. Il problema è che appunto da un lato c'è grande incertezza su quali, innanzitutto, quale possa essere la maggioranza di governo, il che cambia di molto anche le aspettative dell'Europa rispetto agli obiettivi di bilancio, ma anche e soprattutto perché in realtà il nostro paese quest'anno, da un lato, secondo quelle che sono le previsioni effettuate dalla Commissione europea nello scorso anno, dovrebbe avere un'economia che corre, diciamo, ad una velocità superiore al suo PIL potenziale, cioè praticamente da quest'anno bisognerebbe fare una forma di austerity un po' più superiore rispetto a quella che è stata fatta nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, perché secondo i modelli della Commissione europea la nostra economia sta viaggiando al di sopra del suo potenziale, cosa criticata da moltissimi osservatori, ma questa è, diciamo, la situazione in Europa. E per questo e per, diciamo, il rispetto in generale delle regole del patto di stabilità e crescita, Dombrovskis ha dichiarato che ci si aspetta che l'Italia faccia in modo di migliorare il suo saldo strutturale di bilancio dello 0,3% del PIL. L'abbiamo detto molte volte, ma il saldo strutturale di bilancio è una forma di correzione del saldo nominale di bilancio, cioè praticamente si prende il saldo nominale di bilancio, ovvero la differenza tra entrate e uscite dello Stato per come sono state realizzate, e gli si aggiunge una correzione ciclica. C'è un parametro che praticamente la Commissione europea stima per tenere conto, diciamo, delle contingenze economiche del momento, per cui se l'economia sta andando, diciamo, particolarmente male, allora i paesi possono spendere un po' di più di quanto la loro situazione di fiscale nominale, quindi quella effettivamente realizzata, gli consentirebbe. E quindi la grande preoccupazione, tra virgolette, dell'Europa è proprio il fatto che, diciamo, se si formasse una maggioranza di governo, soprattutto, diciamo, di carattere, tra virgolette, euroscettico, quindi Movimento 5 Stelle Lega, allora questo obiettivo di bilancio in miglioramento, diciamo, del saldo strutturale non verrebbe realizzato. E proprio per questo Dombrovskis ci ha tenuto a dire che comunque se sarà il governo attualmente in carica a occuparsi della presentazione del DEF, sicuramente lo scenario politico dovrà essere immutato, ma poi anche nel caso in cui, come dire, il nuovo governo dovesse insediarsi, diciamo, ha chiarito Dombrovskis che ci si aspetta il rispetto di questa regola. E infatti uno dei primi scogli che si presenterà a qualsiasi governo dovesse poi insediarsi in questo mese o nei prossimi è che è molto probabile che in assenza di misure straordinarie debba scattare un aumento dell'IVA per neutralizzare le famose clausole di salvaguardia, cioè praticamente quelle disposizioni che fanno sì che a seguito di sforamenti passati nel disavanzo programmatico, quello strutturale appunto, quindi non quello effettivamente realizzato di cassa, gli stati debbano correggere con misure di questo tipo. E quindi sicuramente, diciamo, lo sguardo dell'Europa in questa fase è molto severo, perché nonostante, diciamo, l'atmosfera politica cambi, ci si aspetta che il governo italiano, non qualunque esso sia, appunto, non devi troppo dal percorso stabilito. Ecco, hai anticipato una domanda che volevo farti, che era proprio quella sull'aumento dell'IVA. Comunque, in ogni caso, è necessario che qualunque sia la maggioranza si intervenga per evitare, appunto, l'aumento dell'IVA. Sì, diciamo, l'IVA è, appunto, l'aumento dell'IVA sarebbe proprio una procedura automatica che le clausole di salvaguardia impongono in questo caso. E in qualche modo, diciamo, l'alternativa è quella di trovare 30 miliardi in qualche modo, quindi o da tagli alla spesa pubblica, o da aumenti delle tasse, o da un mix delle due cose. Per cui la scelta, diciamo, che si dovrà porre per il prossimo governo sicuramente non è semplice, a meno che naturalmente il governo che verrà a insediarsi non decida di dare la priorità, diciamo, ad alcune delle promesse fatte in campagna elettorale, e quindi, diciamo, ignorare quello che è il percorso di crescita stabilito del debito pubblico, appunto, stabilito dalle istituzioni europee. Staremo a vedere, anche perché in realtà, diciamo, quello che sta emergendo dalle dichiarazioni delle forze politiche è che almeno per il 2018 sembra che le modifiche da fare, gli scossoni da dare non siano poi molti, ma che il quadro poi programmatico, cioè le vere nuove iniziative di questi eventuali nuovi governi che vanno a formarsi, inizierebbero a farsi sentire dal 2019, ed è plausibile, perché, diciamo, iniziarsi a trovare con il mancato rispetto di una regola europea subito all'inizio del mandato diventa davvero difficile.